Perfetto, fa proprio caldo qua dentro. Ma tu crei proprio il calore, Jerry. Il calore. Tra poco le due comari, Fergalla e Gino Banderas, che mi dirige l'orchestra dalle 21 alle 23. Billboard Music Chart. Splendida. Vado bene. Vado bene di lingua, Fergal. Billboard Music Chart. Bravissimo. Billboard Music Charts, go Jerry. Ha un'adrenalina addosso stasera, Fergal, che non vi dico. Mi trova tutto questo bimbo, amore. L'ultimo messaggio da leggere al 335 537 9191. Ciao Jerry, ci fate ascoltare la canzone di rap via e la del Billboard Music Chart. Yeah, let's do it. Due ore, in queste due ore che cosa succede, Fergal? Allora, la più bella musica che abbia mai sentito in vita tua, Jerry, e poi un po' di belle notizie sugli artisti, un po' di curiosità di tutto il mondo. Magari farà ridere pure, grazie Ignazio. E so che questa sera mi passerai anche un bel Marvin Gaye, What's Going On, eh? You better believe it. Oh, ci ribecchiamo domani alle 16:30 con le tre parole di Valeria Rossi. Dammi tre parole, sole, cuore, amore, tesora. Ma sì, Kylie Minogue, Can Get You High, abbondanto il mondo. Paris. Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. Tokyo. Billboard Music Chart. Club 91 Club 91 Club 91 presenta Billboard Music Chart. Welcome to Billboard Music Charts, le ore 21 di lunedì 28, anzi 12 novembre. Sono un po' confuso perché sono 18 mesi che questo microfono non viene aperto a quest'ora su Club 91, quindi leviamo questi ragnatelli che sono vicino e iniziamo subito con un gran pezzo che il nostro mitico tecnico Gino Banderas metterà adesso. It's Sting, taken from his new album All This Time, registrato l'11 settembre e dedicato al disastro tragedia in New York. On that day, it's fragile. Blood will flow, will flesh and steel are one. Drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain. Wash the stains away. Something in our mind always flows. The rain will fall. Perhaps it's final like this mist. There's the lifetimes of nothing comes from violence, and nothing ever comes. One of point beneath an angry star. But you forget how fragile it is. bello questo pezzo, Fragile, proprio toccando, sapendo le notizie, le storie dietro questo, praticamente registrato il giorno in cui c'era l'attentato a New York l'11 settembre, e Sting aveva appena scoperto che aveva perso due amici in questa tragedia, e perciò dopo averlo cantato dal vivo in sua villa a Firenze ha praticamente chiesto un minuto di silenzio, dove tutta la gente che c'erano lì hanno pianto. Molto molto triste, e un bel inizio del nostro programma Billboard Music Charts, perché viene dal suo nuovo album All This Time, che sicuramente troveremo al number one prima di Natale. Comunque, Billboard Music Charts is the name of the program. My name is Fergal Kavanagh. Saremo insieme ogni sera dalle 21 alle 23, dal lunedì a venerdì. E ragazzi, per anticipare un po' di che si parla, si parla della musica, della bella musica di tutto il mondo, e anche un po' di notizie e curiosità di questo bel pianeta dove abitiamo. E voi ci potete anche contattare al 335 537 9191, cioè 335 537 9191, questo è il nostro numero di SMS, e se ci volete telefonare pure per richiedere un disco, lo potete fare al 081 549 9191, ripeto 081 549 9191. Allora, con la classifica andiamo avanti. Robbie Williams ha un nuovo pezzo insieme a Nicole Kidman, quell'attrice, and this is called Something Stupid from his album Swing When You're Winning. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. Ireland, just like myself, sono irlandesi, The Cranberries, and that's their new single Analyze, e questo è un grande successo in tutto il mondo per loro. Infatti in America è al 25esimo position, number 25. That's incredible for an Irish group. Disco richiesta, la vostra musica preferita allo 081 549 9191. Disco richiesta. Allora, avete sentito il numero, ragazzi? Mettetevi a telefonare adesso per richiedere il vostro disco preferito. E nel frattempo vi facciamo sentire il nuovo di Mick Jagger. This is called God Gave Me Everything. All right, Mick! Billboard Music Chart. Paris. Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. Thank you.

E vediamo chi c'è in linea in questo momento. Buonasera, chi sei? Pronto, ciao, buonasera, sono l'ottavo nano. Un bacione a tutti i 91 anni e non, ditemi voi tutto. Oh, allora, grazie ottavo nano per aver telefonato. Salutami il nonno nano e il settimo nano pure, ti prego. Allora, il gioco è molto molto semplice da fare. Tu semplicemente devi scegliere una lettera tra la A e la E. Io qua ho 5 buste davanti a me. L'apro e la domanda che esce è quella che tu devi rispondere. Non sono tutte domande, ci sono anche delle attività da fare. Sei pronto? Ok, ok. Allora, dammi una lettera tra la A e la E. Allora, facciamo la E, l'iniziale del mio nome. E per Emboli, ma tu sei ottavo anno, non c'è lo O. Vabbè, il soprannome quello lì, è riconoscimento. Allora, vediamo che apro qua. Ecco qua, e che c'è scritto dentro? Ah, ma sai cantare un po'? Non è proprio una domanda, devi cantare semplicemente la parte iniziale del nuovo hit di Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, ce la fai? Madonna mia. No, non Madonna, Kylie Minogue, dai. Ho capito. Ti aiuto io, ti aiuto io. Fa la la la, ci sei? La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Wow! Solo nel la la la, il resto la metti te. Sei mitico, questo ci va benissimo. Allora hai vinto un cappellino, rimani grazie in linea, prendiamo okay, le tue dettagli. Grazie. Allora, grazie. Abbiamo un altro in linea o andiamo con la musica? Ok, abbiamo un altro, pronto, chi sei? Pronto, ciao, mi chiamo Simona. Simona, grazie di aver telefonato al Club 91. Prego. Tutto a posto con te? Sì. Meno male, allora devi scegliere una busta tra la E e la L, non c'è più, quindi la e la D. Ok. Allora, dimmi tu la lettera. B. B, ok, apriamo questo B. Ah, perfetto. Questo è una molto molto semplice. Ok. A parte gli U2, mi potresti dire il nome di almeno un cantante o gruppo con cui ha collaborato Bono Vox? Non ti ricordo quello che ha fatto con Old Blue Eyes? Quello Can't Get You... No, quello è Kylie. Quello Got You Under My Skin? Oppure quel What's Going On che ha fatto con Jennifer... Jennifer Lopez. Oh, sei mitica, grazie Simone, resti in attesa e prendiamo le tue dettaglie. Nel frattempo andiamo avanti con quel pezzo che proprio l'ottavo nano cantavo. Se sei ancora in linea, cantiamo tutti insieme con Kylie. Billboard Music Chart. Billboard Music Chart. New York Billboard Music Chart. Coming out the other side. And once you dig in, Kravitz from his new album. Questo pezzo si intitola Dig In e Lenny Kravitz ha appena pubblicato questo album, già si trova al numero 110 nel Billboard Hot 200. Magari non sembra molto alto, però invece questa è una grande vendita per un album appena uscito. E la novità lì pure è che Lenny Kravitz ha suonato tutti gli strumenti in questo pezzo, è proprio un mito e a noi piace molto, molto, molto. Allora do salutare alcune persone, voglio salutare a Stefania che mi ha detto bentornato sulle onde e anche un grande bacio al nostro Gino Banderas, grazie Stefania per il tuo messaggio, e Roberta che mi ha scritto thank you very much, molto carino il tuo messaggio, 335-537-9191 è il nostro numero di SMS. Allora ragazzi, siete pronti? Perché noi andiamo adesso alla Silver Screen Shower Scene con Felix the House Cats. Billboard Music Charts. Billboard Music Charts. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Scene. Allora ragazzi, Billboard Music Charts, e ogni sera avremo una bella chicca, praticamente a quest'ora facciamo sentire un pezzo Now and Then, ascoltiamo prima l'originale e poi un gran bel cover. Allora oggi abbiamo scelto un pezzo dal 1987, it's Michael Jackson, e subito dopo viene la versione del 2001, All the Way from the group Alien Ant Farm, and the piece is called Smooth Criminal. Okay, you okay? You okay, Annie? Annie, you okay? It's a test. on, come on, come on, now touch me, baby. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Eccola lì, un grande pezzo per aprire il nostro secondo ora of Billboard Music Charts. My name is Fergal Kavanagh, on controls, Gino Banderas, and that is The Doors with Touch Me. E oggi è il 12 novembre, guardiamo indietro 31 anni e troviamo che il 12 novembre del 1970 i Doors hanno suonato il loro ultimo concerto a New Orleans. E gli altri Doors, Ray Manzarek, Robbie Krieger e John Densmore, hanno detto che dopo il concerto hanno notato che Jim Morrison ha perso tutte le sue energie. Forse sapevo che proprio era l'ultimo. Allora, Billboard Music Charts, gli U2 stanno avendo molto ma molto successo in America al momento con Stuck in a Moment You Can't Get Out Of, che è già stato un grande hit qua in Europa, ma noi adesso li ascoltiamo con il loro nuovo pezzo. It's Walk on Club 91. Hello. Darkness Questo bellissimo pezzo, e questo è stato un mega hit per lui, 3 settimane al numero 1 nella Gran Bretagna. Però purtroppo proprio ieri i Westlife l'hanno superato. Afroman si trova al numero 2 e i Westlife si trovano al numero 1 in Gran Bretagna. Che ne dici, Gino? Facciamo sentire i Westlife? No, va bene, non lo facciamo sentire. Non è, forse un ascoltatore lo vuole sentire. Comunque, ascoltatori, se volete scegliere il vostro brano adesso, basta telefonarci al 081 549 91 91 perché sta per arrivare il disco richiesto. Nel frattempo voglio salutare a Mario e a Ludo e anche a Merge che mi ha scritto l'SMS 335 537 91 91. Macy Gray for you. Ecco, Little L, grande pezzo da Jerry McQuay, e lui potrebbe essere molto ma molto contento perché in questo momento si trova al numero 7 in Germania. Za, sehr gut, Jerry McQuay, big success in Germany. Mary J. Blige with Family Affair, e questo pezzo è stato scelto da Monia che ci ha telefonato da Napoli. Grazie Monia, è un ottimo scelto pure perché questo si trova proprio al numero 1 nella classifica del Hot 100 Billboard American Charts. Allora un altro grande artista, here's Janet Jackson. Billboard Music Chart. Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. Billboard Music Chart. Billboard Music Chart. Mare Luna, yes, you're listening to the Billboard Charts. Comunque ragazzi, non dimentichiamo che stiamo trasmettendo da Napoli, la più bella città del sud Italia. E chi troviamo da Napoli? Troviamo il grande Pino. E questo viene dal suo ultimo album intitolato Medina. Ok ragazzi, per annunciare Billboard Music Charts ogni sera dalle 21 alle 23. E tra pochissimo arriverà il nostro momento del gioco, un'opportunità per voi di vincere qualche cappellino con Club 91, e potete dire a tutti quanti in capa: io ascolto la più bella radio di tutta Italia. Pino Daniele in sottofondo, rimaniamo a Napoli adesso. Hanno appena pubblicato il loro primo raccolta, dobbiamo dire la loro prima raccolta, e questo si trova in Italia nella classifica dai album, mi pare che sia al numero 15. Di chi sto parlando? Sto parlando di 99 Posse, and this is Stop the Train. Eccoci qua, siamo arrivati al momento di giocare. Allora, vediamo chi c'è in linea per vincere, per avere la chance di vincere un bel capolino Club 91. Pronto, chi sei? Sono Salvatore, Fergan. Salvatore, buonasera, come va? Bene, bene. Allora, tu credi di essere un esperto della musica, o magari vuoi cantare qualcosa in diretta? Sì. Sì, allora vediamo, tu devi semplicemente scegliere tra le 5 buste che avevo, adesso ne ho solo 3, quindi A, B e C, che quale ti interessa tra la A, B e C? La B. La B, ok, vediamo, apriamo qua, ecco che esce la domanda. Ecco, spero che sei un esperto di un gruppo storico degli anni 60, perché questo dice: che strumento suonavo Ringo Starr? Ringo Starr? Sì, Ringo Starr, la sai chi batteria. È? Wow, hai vinto un bel capolino. Allora resta in linea, così prendiamo il tuo grazie, nome attivo per caro. Perfetto, buon ascolto ragazzi. Allora andiamo avanti con la musica on Billboard Music Charts. O abbiamo un altro ascoltatore? La musica, allora, What's Going On, questo pezzo grandissimo gestito da Bono con la voce di Jennifer Lopez, Destiny's Child e tantissimi altri. Marvin Gaye era l'originale. Here they are, the All Star Lineup and What's Going On. Billboard Music Charts. Billboard Music Charts. 91, siamo stati i primi a far sentire Believe dai Cher tanti anni fa, e tutti gli altri radio ci hanno seguito, e sarà la stessa cosa con questo nuovissimo hit di Cher, That Music's No Good Without You, un gran pezzo per ballare. Allora, invece di parlare della classifica nel futuro, parliamo di questo attuale. Allora, al numero 42 nel Albums Charts in America, it's Elton John, Here's I Want Love. Music chart. Paris. Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. Ecco, Hero, Enrique Iglesias. Ma quanto bello Enrique Iglesias. E lui si sente proprio un hero in questi giorni, perché questo è al numero uno nella Hot Latin Tracks nel Billboard Music Charts, o almeno la versione spagnola, Eroe, non lo so come mi pronuncio. Comunque praticamente dice: mi fa molto molto piacere tornare al numero uno, soprattutto in Messico, perché sono 3 anni che non ci vado a fare promozione, e adesso ci sento rivivo e posso tornare ad essere un grande star. Ecco Enrique, non mancava mai la possibilità che tu rimaneresti come una grande star, per bene o per peggio, senza commenti. Comunque anche questo pezzo si trova al numero 10 in Italia e anche al numero 10 in Germania. You've been listening to the Billboard Music Charts, in onda ogni sera dalle 21 alle 23 on Radio Club 91, the best music and the best news per 2 ore a quest'ora. Ragazzi, mi pare che è il momento di andare. Voglio salutare Gino Banderas on control. And my name is Fergal Kavanagh, e ci sentiamo domani. E vi ricordo che in internet siamo al www.radioclub91.it. Bye bye. 91 Music and News.